Ora la parola a Bruno Mangaro per l'Ufficio Industria e Immigrazione della CGIL Genova. Grazie e buongiorno a tutti. Ma io parto da una affermazione che ha fatto l'ex Presidente del Consiglio. Mi sono scritto gli appunti, era Presidente del Consiglio, adesso il quadro è un po' cambiato. Qualche giorno fa, in visita in Turchia ad Ankara con il Presidente Erdogan, ha rilasciato alcune dichiarazioni che le agenzie hanno riprese e che erano di questo tipo: l'Italia non ce la fa più ad accogliere i migranti. Una frase credo che non rappresenta la realtà, che non è la verità, perché poi i numeri, come si dice, hanno un po' la testa dura. E la CGIL, che sta costruendo un report, lo fa ormai annualmente, quindi ci sarà questo report, il rapporto fra gli immigrati e il sindacato, e fornisce dei dati che poi sono quelli del Ministero degli Interni, delle Questure, delle Prefetture, che ci dicono che nel 2021 67.000 immigrati sono arrivati in Italia, in gran parte via Mediterraneo, lo 0,11% della popolazione italiana, che a gennaio 2022 sono dichiarati, certificati quindi, cittadini residenti in Italia, però stranieri, 5 milioni su quasi 60 milioni di abitanti, quindi l'8,8%. E si ipotizza che quelli, diciamo, gli immigrati senza permesso di soggiorno si aggirino intorno ai 600.000. Quindi questi sono i numeri. Nel 2021 solo 53.000 hanno chiesto asilo in Italia. E se facciamo un rapporto con appunto altri paesi europei, la Germania, la richiesta d'asilo è per 120.000, anzi per 190.000, 120.000 li chiede la Francia, quindi domande di asilo. Quindi non c'è l'invasione, c'è un racconto purtroppo che noi dovremo porci sempre il problema di smentire. Non c'è nessuna invasione e, come diceva prima anche giustamente Nicoletta, un'invasione non vera, ma di fronte a un calo demografico. Quindi a un'Europa e a un'Italia che si impoverisce, e in particolare si impoverisce di giovani, perché insomma questi immigrati molte volte sono giovani e giovanissimi. Quindi questo è un dato presente, e in questo dato non vero, appunto in questa dichiarazione di Draghi, se ne è aggiunto un altro, è quello di una direttiva europea che era del 2001, quindi, ma che è stata applicata 21 anni dopo, a seguito del conflitto in Ucraina, della guerra, non entro qui nella discussione, una guerra tra potenze, imperialismi che si scontrano in quel territorio, in quel terreno, e una guerra che ha prodotto profughi, che ha prodotto nuove immigrazioni. Giustamente, e sottolineo giustamente, quella direttiva europea è stata per la prima volta applicata. E cosa dice quella direttiva? Dice che hai diritto alla protezione temporanea di fronte al fatto che sei sfollato da una zona qualsiasi, che quindi la comunità europea può decidere in giro per il mondo, che hai diritto alla protezione temporanea per conflitti o violenza endemica, e che hai diritto alla protezione temporanea per violazione dei diritti umani. Quanti immigrati hanno diritto? Tanti, tantissimi. Quindi giustamente a chi scappa dall'Ucraina, ma giustamente per tutti. Credo che questo sia una delle contraddizioni che si sommano a quelle che ha un racconto non vero, e che non è un caso che questa direttiva si applica 21 anni dopo. E se abbiamo appunto i dati, che tra l'altro in questi giorni hanno riportato giornali, riviste come Der Spiegel in Germania, il Fatto Quotidiano in Italia, utilizzando dati dell'Alto Commissariato dell'ONU, quindi non chissà chi, dice che più o meno nel mondo possiamo ipotizzare 100 milioni di sfollati. quasi due volte la popolazione italiana. E di questi 100 milioni, 27 milioni dovrebbero essere classificati come profughi, rifugiati, e 4 o 6 milioni tentano di essere richiedenti asilo. Quindi una discriminazione, tra l'altro una discriminazione che è iniziata anche dentro l'Ucraina, perché chi è scappato prima della, diciamo, direttiva dell'aggiornamento della direttiva europea, quindi il 24 febbraio, chi è scappato il giorno prima non ha diritto ad essere a una protezione temporanea, così come ne hanno diritto chi non ha passaporto, quindi gli studenti che erano a Kiev, studenti che venivano da altre parti del mondo, oppure altri profughi che erano presenti in Ucraina. E per certi versi neanche i russi, che contestando la scelta del proprio governo hanno deciso di scappare per non essere, anche loro non hanno diritto. Quindi ci sono le stesse bombe, ma ci sono diritti diversi. E bombe che poi, assenza di diritti per chi viene da Bangladesh, dalla Libia, dall'Egitto, dall'Africa, dove esistono guerre e carestie. Quindi credo che questa questione di una direttiva giusta, ma applicata solo per una parte, ripeto, giustamente per chi ce l'ha oggi, sia una delle cose da prendere in mano nella nostra, diciamo, discussione sulla questione immigrazione, immigrazione d'Italia. Tra l'altro, questa direttiva è quindi recepita poi dal governo italiano, dà alla protezione civile il ruolo di gestione. Certo, non è che spariscono le questure e le prefetture, ma capite che è un altro modo di affrontare la questione immigrazione. Oltre al fatto che la quantità economica che viene data per chi accoglie è quasi il doppio di quella che normalmente viene data alle strutture, alle associazioni per la vita, per gestire l'accoglienza degli immigrati. Proprio in questi giorni sui giornali cittadini l'associazione migrante, sua rappresentante Don Giacomo, diceva c'è un problema, l'inflazione c'è anche per le nostre strutture, l'aumento dei costi dell'energia c'è anche per le nostre strutture, quindi l'accoglienza diventa più complicata e più difficile. Quindi se la questione economica può trovare soluzioni dietro anche il meccanismo della direttiva europea, è chiaro che questo dovremmo rivendicare di allargarla per tutti. E tra l'altro con procedure veloci, cioè tu hai immediatamente un codice fiscale, quindi puoi muoverti. Quando, cioè appunto, utilizzando sempre dati che vengono da altri soggetti, l'associazione con la struttura Asylum Information Database, AIDA, che è una struttura dell'Unione Europea, dice che in Italia si può attendere fino a 3 anni per vedere riconosciuto il proprio diritto alla protezione, quando la legge ne darebbe il tempo di avere una risposta di circa 4 mesi. Quindi capite che cambia notevolmente nel meccanismo di accoglienza, che è già frammentato, che è già confuso, ma solamente l'applicazione di questo credo che potrebbe essere un fatto assolutamente, assolutamente importante. Quindi è chiaro che noi su questa questione dobbiamo, credo, aprire una discussione per quel che ci riguarda sul nostro territorio, ma credo che sia una discussione che attraversa anche di tutti quelli che si occupano di intervenire sulla questione degli immigrati. È una direttiva giusta, è una direttiva che semplifica, è una direttiva che va applicata. Credo, questo è una riflessione che abbiamo iniziato a fare in CGIL, con Genova Solidale, a settembre dovremmo far diventare questo un dibattito sempre più pubblico, rivendicando a chi ne ha ruolo e competenze, cominciare da le prefetture, le istituzioni, eccetera, e perché non viene applicato un meccanismo di questo tipo. Ed è chiaro che non basterà, diciamo, una semplice discussione, ma farla diventare proprio un'iniziativa, credo, di importante rispetto alla rivendicazione, a una contraddizione evidente evidente, su cui nessuno ti può dire, diciamo, che stai raccontando oppure sognando qualcosa che non può essere fatto, sapendo che l'accoglienza è una prima parte della discussione, perché è comunque importante, perché certo, se riesci a fare, come giustamente diceva Sant'Egidio, Marina, meccanismi di corridoi umanitari è un fatto assolutamente positivo, ma tanti hanno meccanismi diversi, arrivano appunto coi barconi, arrivano per altre strade molto più complicato e vivono condizioni di ricatto personale, credo, molto, molto pesanti dopo essere scappato da condizioni orribili e terribili. Quindi l'accoglienza, e l'accoglienza è poi anche di come si costruisce il meccanismo dell'inserimento, quindi aprendo e riaprendo e tenendo viva, poi non è che l'apriamo noi, ma tenendo viva questa questione dell'inserimento, e quindi l'inserimento nel lavoro è la questione importante, e quindi vuol dire dare gli strumenti per inserire nel lavoro, intanto appunto riconoscerlo. In questi giorni l'associazione patronale tedesca, quindi anche lì non può essere, diciamo, accusata di chissà quale posizione politica, rivendica il fatto che gli immigrati siano accolti subito e velocemente. Arriva a dire l'associazione tedesca, servono anche russi e bielorussi, in un momento in cui stai facendo la guerra, quindi qualche problema, servono 100.000 informatici, perché altrimenti non ce la facciamo. Le agenzie del lavoro tedesche sono in Turchia, chissà perché, saranno un po' di immigrati probabilmente lì, per cercare 2.000 operatori per il settore degli aeroporti, chiedono nel settore della sanità, dell'accoglienza, quindi vanno e chiedono al governo di avere procedure celeri, perché non puoi aspettare anni per utilizzare una forza lavoro che appunto è in declino. E sempre la CGIL dà questi dati appunto sulla forza lavoro. Nel 2012 quasi 9 milioni e mezzo era la forza lavoro riferita all'Italia, e nel 2022 si calcola 6 milioni e si prevede nei prossimi 30 anni che la popolazione attiva in Italia si ridurrà di un terzo, una delle situazioni più complicate in Europa. Quindi anche la questione che non solo è giusto accogliere degli immigrati per le loro condizioni e dargli il diritto di vivere, ma sono un elemento importante alla vista diciamo, della condizione del lavoro e della vita sociale. È chiaro appunto che devi integrarli, quindi devi integrarli nel lavoro, dargli dei diritti, dargli il salario che gli spetta, dargli tutto ciò che ai lavoratori serve, dargli il diritto alla casa, dargli il diritto poi agli assegni familiari, a tutto un meccanismo che per i lavoratori italiani è presente, ma evidentemente per loro è molto più difficile. Il riconoscimento della loro qualifica, perché non è che arrivano immigrati che non hanno, come si dice, né capo né parte, magari sono tecnici, infermieri, medici, ingegneri, e come si fa a riconoscere questo? Chiedendo al paese di origine, oppure se si sono portati dietro il loro attestato? E quindi anche un meccanismo di questo tipo va rivendicato, e quindi è una battaglia complicata. Così come va affrontata un'altra discussione che in questi giorni è uscita sul territorio genovese, è la questione dei minori non accompagnati, che producono tensioni, probabilmente sì, a parte che il disagio sociale non riguarda solo i minori, diciamo, immigrati, ma riguarda i minori in genere, quindi sarebbe una discussione più complicata, io non credo di averne le competenze. Però appunto le associazioni proprio in questi giorni denunciano una cosa: ma se in un anno i minori sono raddoppiati e le strutture non hanno le risorse, non hanno gli spazi, come affronti il tentativo di integrare questi minori? Come un problema di ordine pubblico? Ne fai diventare magari appunto in questi giorni, spero di no, e comunque se qualcuno ci pensa, come si dice, bisognerà pensare a come rispondere. È un tema di campagna elettorale, quindi diventa un problema di ordine pubblico, come qualcuno tentò di fare qualche anno fa, magari a Multedo, per 10 giovani profughi, No. Credo che questa questione va tenuta in considerazione. Anche quello è un pezzo del futuro, sono giovani. Non credo che sia semplice, però insomma, le cose semplici credo che non ce ne siano assolutamente. Però questa è una questione che va affrontata. E per farlo credo che noi possiamo utilizzare questa questione dell'accoglienza, di un diritto all'accoglienza che deve valere per tutti. E credo che da settembre o poi troveremo il modo, lo spazio, i tempi, eccetera. Questa questione deve diventare un'iniziativa pubblica. La questione immigrati deve tornare ad essere un tema del dibattito e dell'iniziativa politico, sindacale, rispetto alle associazioni che al volontariato e che accolgono in modo concreto, credo assolutamente. Lo ripeto, non è facile, però è necessario, perché se affrontiamo questa questione dell'immigrazione sull'accoglienza e sull'integrazione, credo facciamo un lavoro utile per questi uomini, donne, bambini che arrivano da altre parti del mondo e anche per noi. Per farlo dobbiamo intervenire rispetto ai lavoratori immigrati che già esistono, perché ci sono i lavoratori immigrati, lo ricordava Bisca, e quindi dobbiamo organizzare, dobbiamo legarli ai lavoratori italiani e quindi costruire questa forza, perché alla fine la questione immigrazione passa dal dibattito, dalla discussione, qualche volta, ma sentendo anche diversi avvocati, giuristi, quasi mai dalle aule dei tribunali, passerà inevitabilmente dalla forza che noi mettiamo in campo, nelle iniziative, sui luoghi di lavoro, nel consenso che creiamo e nell'adesione, diciamo, ad alcuni obiettivi, ad alcune battaglie di più gente possibile per andare con tutta la forza necessaria alle istituzioni rivendicando appunto diritti e diritti uguali per tutti. Vi ringrazio.